Station present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello again, this is Fergal Cavanaugh with Tam Tam Europe, la vostra pillola di rock e altro, messo in onda 4 volte al giorno on Radio Tour The Moving Station. Allora, sicuramente ricordate delle scorse estate e il grande hit degli Offspring, Pretty Fly for a White Guy, e sicuramente avete visto il video. E chi di quel tipo, the star of the video? His name is Guy Cohn, e dopo aver girato quel video è diventato lui stesso una star, e è andato in tournée con gli Offspring, dichiarando nelle interviste di essere più famoso della band. Adesso è a Los Angeles facendo l'attore e immagino che sentiremo parlare ancora di questo Guy Cohn. E la chiesa anglicana ha ringraziato gli Offspring per l'immagine che hanno messo su un CD di un bambino che prendeva una pistola da una strada piena di siringhe, dicendo che mostra la triste realtà di oggi. Allora, if you want to call us here on Tam Tam Europe, the number is 081-790-1411 or send a message to 0348-2438-888. That's it for now from Fergal Cavanaugh on Radio Tour The Moving Station. I'll leave you with Offspring and Pretty Fly for a White Guy. Alla prossima. Tam Tam Europe. For a white guy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. So don't he fake, play us straight. For a white guy, tanto a Europe su tour. S-P-O-T, spot. Portato l'album on tour con l'Orchestra Internazionale Italiana, che hanno collaborato sull'album, ma c'è anche Cristina Donà, Carmen Consoli, una dei Casino Royale e una dei Mamao. L'album è molto bello per voi romantici e oggi vi vogliamo fare ascoltare il primo singolo Un Giorno in Più. Questo è tutto per ora, se mi volete mandare un'email segnate questo indirizzo fergal@radiotour.it. Do Tam Tam Europe, nostra redazione di Londra, e do Fergal Cavanaugh, questo è La Cruz con Un Giorno in Più. Alla prossima. Tam Tam Europe. Tra i tuoi capelli l'amore ha scelto di fermarsi qui. Non so spiegarlo nel modo che vorrei, perché così non mi è successo mai. Questo amore non può sembrare strano e non promette quello che non ha. Non ha ispirato più, non chiederlo a chi, ma io lo so che durerà. Sedia su in paradiso e non misura ciò che dà. Con la miele, ma come il sale brucia e dà sapore ai giorni che tu hai. Ma io so che durerà. Cielo, ogni angolo di strada, ne nasce un altro ne verrà. Ma questo è il nostro, dà senso alla realtà, e io lo so che durerà. Canzone della Cruz, l'avete ascoltata su Radio Tour The Moving Station in TomTom Europe, questa pillola, una delle pillole che vanno in onda tutti i giorni, preparate dalla nostra redazione londinese, lette dal nostro Fergal Kavanagh, che è un grande informato di rock e non solo, chiaramente. Mi sembra di capire che si interessi molto anche alle donne, oltre che al rock, ma le si sa, gli irlandesi sono così, donne, birra e rock. Il prossimo appuntamento con Fergal Kavanagh e TomTom Europe è intorno alle 19.10 su Radio Tour The Moving Station. Adesso una piccola pausa, ci incontreremo tra pochissimo col prezioso e Let Me Stay. S-P-O-T. Spot. Tour, the moving station. Present TomTom Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everyone, this is Fergal Kavanagh e benvenuti a TomTom Europe. In questo pillole che vanno in onda quattro volte al giorno, raccogliamo le notizie preparate della nostra redazione di Londra e ve le proponiamo con rock e non solo. And today we're going to talk about vegetarianism. Lo sapete che in Italia c'è una squadra partecipante al Giro d'Italia, sponsorizzata da Linda McCartney Foods. Linda si è sempre distinta nella battaglia ambientalista e tuttora del suo aziende continua a produrre cibi vegetariani. È vietato per i componenti di questa squadra mangiare la carne. Il ciclista Max Chandri ammette che gli mancano il prosciutto e il filetto, però ormai si sta abituando. Anche alla cantante Alanis Morissette mancherà un certo tipo di cibo, ma non la carne, per carità. Infatti lei è strettamente vegetariana da sempre. Alanis ha scoperto di essere allergica al tofu, un formaggio di provenienza non animale derivato dalla soia. Speriamo che trovi un'alternativa, perché il tofu è uno degli alimenti che più le piacevano. Allora, dalla nostra redazione di Londra, The Moving Station, this is Fergal Kavanagh, e vi lascio con Alanis Morissette, che dedichiamo a Max Chandri, Joining You. Alla prossima. TomTom Europe. Dear Dar, your mom, my friend, left a message on my machine. She was frantic, saying you're talking crazy, that you wanted to do away with yourself. I guess she thought I'd be a perfect resort, cause we've had this inexplicable connection since our youth. and I feel like 4 year olds. We want to know why and how come about it, everything. We want to reveal ourselves at will and speak our minds. Ringraziamo il nostro Fergal e la redazione di Londra. E Fergal che ci ha proposto questo singolo di Alanis Morissette, Joining You, su Radio Tour Movie Station. Facciamo una piccola pausa, ci ritroviamo tra poco. S-P-O-T, spot. Radio Tour, the movie station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh bringing you the best news in rock and non solo sul Tam Tam Europe. 3 pillole al giorno preparate dalla nostra redazione di Londra nel cuore dell'Europa. E tutti conoscono Eva Herzegova dopo le sue parti nel film di Vincenzo Salema, L'amico del cuore, girato qua a Napoli. E magari sapete che era sposata una volta con Tico Torre, il batterista di Bon Jovi. Purtroppo questa unione è finita in un divorzio dopo che Tico si è preso una spandata per un'altra modella che fa anche pubblicità per reggiseni e viene anche lei, come Eva, dall'Europa orientale. Ma gli è andato male, visto che Adriana Sklenarikova non voleva saperne nulla e Eva Herzegova non ha perdonato suo marito. E questo purtroppo è la vita vera. Perciò su Tam Tam Europe facciamo sentire Real Life dai Bon Jovi. Se ci volete scrivere o proporre brani e gruppi da ascoltare, l'indirizzo è fergal@radiotour.it. Da Londra e Fergal Kavanagh su Radio Tour The Moving Station, this is Bon Jovi from the film HTV and Real Life. Ciao, alla prossima. Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh e voi state ascoltando Tam Tam Europe, pillole di rock e oltre che vanno in onda 4 volte al giorno. E con l'album Californication i Red Hot Chili Peppers sono tornati ad essere grandi star, forse perché dopo 3 anni è tornato il vecchio chitarrista John Frusciante, o forse perché con l'età tutti i componenti hanno cambiato il loro modo di vivere. Superati i problemi di eroina che ha quasi rovinato il gruppo, adesso è più probabile trovarli a scalare The Himalayas o a fare il dive diving o il rafting a Bali o Indonesia sono diventati appassionati di attività sportiva all'aria aperta. E da Bali a Mosca, dove l'anno scorso hanno suonato nella Piazza Rossa, un'esperienza che descrivono come una delle migliori nella loro vita. E da Mosca a Melbourne, dove hanno appena suonato per 46.000 spettatori al Big Day Out Festival. This is like a tour of the world, so on TamTam Europe we're gonna play around the world. Se ci volete segnalare gruppi da ascoltare, chiamateci al 081 790 14 11 o inviate un messaggio alle 0348 24 38 888. Da Londra e da Fergal Cavna vi lasciamo con i Red Hot Chili Peppers e Around the World. Alla prossima! TamTam Europe. Din din don don din din dan don Molto bella questa canzone che ci è stata proposta dalla nostra redazione di Londra, TamTam Europe, grazie al nostro Fergal Cavana. Questa Radio Tour The Moving Station, in tour in questo caso. Oh, io c'ho la voglia di andare a Londra pazzesca. Present TamTam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Cavna e voi state ascoltando TamTam Europe, pillole di rock e oltre che vanno in onda 4 volte al giorno. La nostra redazione di Londra ci racconta che Courtney Love, la moglie di Kurt Cobain, ha attaccato a Dave Grohl, l'ex batterista dei Nirvana ed attuale cantante dei Foo Fighters, dicendo che Kurt lo odiava a pelle e che Grohl gli ha girato le spalle quando Kurt aveva più bisogno di lui. E questa non è l'unica notizia su Dave Grohl, che è stato arrestato in Australia per essere ubriaco mentre guidava la macchina. Non so se avete visto il video del singolo Learn to Fly quando lui porta l'aereo. Spero che non beccare lui come pilota durante il mio prossimo viaggio a Londra. Se ci volete segnalare gruppi da ascoltare, chiamateci al 081 790 14 11 o inviate un messaggio al 0348 24 38 888. Vi lasciamo con The Foo Fighters e Learn to Fly da TamTam Europe e Fergal Cavna. Ciao, alla prossima. TamTam Europe. Thinking in a devil to help me get things right.

everybody, this is Fergal Kavna e benvenuti a Cham Cham Europe, la vostra pillola di rock messo in onda 4 volte al giorno, in cui raccontiamo tutto ciò che riguarda i migliori artisti e canzoni di rock e non solo. Allora adesso vi vogliamo fare ascoltare il grande hit di Sheryl Crow, My Favorite Mistake, cioè il mio errore preferito. E avendo letto un'intervista con la cantautrice, volevamo citarla un po'. Il giornalista le aveva chiesto qual era la cosa più brutta che abbia fatto mentre era ubriaca e la risposta fu vomitare nel Camden Underworld, in un club a Londra, dove dopo un concerto il giorno del mio compleanno nel 92 stavo bevendo Maker's Mark sul palco e poi le tequila boom boom mi hanno dovuto portare fuori in braccio. Che brutta figura, ma ammetto che la capisco perfettamente. Io continuo a fare questo cosiddetto errore, però spero per Sheryl che sappia gestirsi meglio adesso. Questo è tutto per ora. Se ci volete segnalare brani o gruppo da ascoltare in Cham Cham Europe, chiamate le 081 790 14 11 o inviate un messaggio alle 0348 24 38 888. Dalla nostra redazione di Londra, io do Fergal Kavna, vi lascio con Sheryl Crow e la dedichiamo al suo mal di testa con Spronza, My Favorite Mistake. Alla prossima. Cham Cham Europe. Sheryl Crow su Radio Tour The Moving Station, grazie a Fergal che ha curato quest'altra pillola di Tantam Europe. Ce ne sono 3 ogni giorno da lunedì al venerdì solo su Radio Tour The Moving Station. S-P-O-T. Spot. Radio Tour, the moving station. Present. Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh and you're listening to Tam Tam Europe, pillole di rock messe in onda quattro volte al giorno on Radio Tour, the moving station. Allora, questo è il periodo delle premiazioni nel mondo del rock e ci sono tanti award ceremonies in giro, chiaramente non solo per il rock. Segniamo i Brit Awards che ci sono stati qualche settimana fa a Londra e sono stati premiati tra gli altri Travis e Robbie Williams, mentre in America Santana ha vinto ben 8 Grammys per il suo album Supernatural. E vincere un award non serve soltanto come riconoscimento al lavoro fatto, ma anche per fare vendere molto più dischi, perciò sia gli artisti che le record companies sperano che la vittoria sia loro. E secondo voi che dicono quando gli viene consegnato un award? Due semplici parole: thank you. E su Tam Tam Europe vi voglio far sentire quel brano di Alanis Morissette, The Supposed Former Infatuation Junkie, che a marzo won the prize for Best Album at the Juno Awards in Toronto, Canada. Vi ricordo il nostro indirizzo email per segnalarci brani o gruppi da ascoltare: fergal@radiotour.it. Do Tam Tam Europe, nostra redazione di Londra, e do Fergal Kavanagh, Alanis Morissette e thank you. Alla prossima. Tam Tam Europe. Alanis Morissette con Thank You su Radio Tour The Moving Station, perché a volte si ha proprio questa esigenza, questo bisogno di prendersi una pausa, un po' di autocontemplazione, un po' lontano dal mondo che ci circonda. Per la sera andiamo a fa. E lei lo ha fatto, se n'è andata in India per trovare l'ispirazione per comporre questo suo lavoro. Abbiamo ascoltato un'estratta da quell'album Thank You, adesso non ricordo il titolo esatto dell'album, ma questa estratta non la possiamo dimenticare, grazie a Fergal Cavanagh, che è un'altra pillola di Tantam Europe. SPOT Spot.